fonte poi di polemiche che si avranno sempre, come sempre in Italia, però aveva permesso di realizzare quella che io ho definito non la città di cartone, ma la città temporanea, vale a dire quell'insieme di luoghi che ci hanno permesso, dopo quei primi drammatici mesi della diaspora di 45.000 aquilani fuori, dell'Aquila e gli altri nella Tendopoli, di tornare, riprendere le nostre attività, una parte, non quelle lavorative, ma almeno poter stare insieme. E ora? E poi? Poi è partita la ricostruzione leggera, che ha visto protagonista i comuni, in particolare il comune dell'Aquila, anche quella abbiamo avuto, sta finendo in questi giorni, mettendo dentro circa 8.000 nuclei familiari. L'anno scorso non è partita la ricostruzione pesante. E lei dice ci sono soldi, ma è un tutti contro tutti. Perché? Sulla ricostruzione pesante. No, non è tutto contro tutti. Questa è una lettura, a mio avviso, di comodo. Sa perché di comodo? Perché potrebbe essere consolatoria, no? E oggi leggo le dichiarazioni, ci sono aspetti, si dice, per problemi burocratici e scontri politici. Non è così. Non è così. Magari fosse stato per degli scontri politici, almeno avremmo una spiegazione. Io lo dico da aquilano, quindi senza alcun altro interesse. Il problema vero è che c'è stato un crollo dell'attenzione del governo, quindi di una regia e anche di un'interlocuzione abbastanza forte e decisa. Si è mantenuta una struttura commissariale senza che più si avesse la forza politica di spiegare al paese. Per questo, sindaco, tra l'altro la struttura, il comune dell'Aquila ha deciso di rompere con la struttura commissariale per la ricostruzione della città, questo possiamo dire? No, così. Noi diciamo così, per il braccio operativo della struttura commissariale, ma proprio perché a mio avviso a questo punto se il comune dell'Aquila, che è il vero, purtroppo la vittima, ma diventa anche il protagonista della ricostruzione, deve accettare un regime commissariale così intenso e così forte, lo può fare solo in cambio di avere dei benefici della presenza di commissari, vale a dire quello di un'accelerazione dei passaggi burocratici, la possibilità di avere delle deroghe rispetto ad esempio alla ricostruzione degli obiettivi sensibili pubblici. E questo per ora non lo vedete molto. Senta, no, questo non c'è per nulla. Non c'è per nulla. Le chiedo quindi, questo, Berlusconi non verrà, ma è vero che lei non l'ha invitato? Noi abbiamo invitato il governo, attenzione. Il governo. Noi abbiamo invitato il governo, è chiaro che in questo momento francamente ci sono stati due inviti da parte mia. Era invitato, chiaramente sono invitati tutti i rappresentanti delle istituzioni, due persone in particolare, il presidente Napolitano, sia perché è sempre stato vicino alla città, sia perché la presenza oggi del Presidente della Repubblica testimonia nuovamente che tutti gli italiani partecipano oggi a questa celebrazione, riconfermando da un lato la vicinanza a questo dramma che, mi creda, ancora non riusciamo noi a metabolizzare da nessun punto di vista, e la seconda quello persona? Del lutto, della tragedia, e dall'altro è anche perché testimonia che il paese ci sarà ancora vicino. Certo. No, ma la seconda persona è il dottor Gianni Letta. Ah, Gianni Letta, che è anche abruzzese. Alla presidenza del Consiglio dei Ministri, che è la persona che in questo momento più ha cercato di tenere le fila di quello che succedeva qui. Molti dicono che lo stia facendo perché è abruzzese. No, io credo che lo faccia perché Si è assunto questo ruolo in un momento in cui il paese è veramente in una fase così difficile. No, ma è il suo ruolo, sindaco, è il suo ruolo istituzionale, il fatto di essere abruzzese può solo aumentare, insomma, il coinvolgimento, emotivo. Senta, sindaco, le chiedo due domande flash, ma il fatto che non ci sia Berlusconi, insomma, a lei che cosa, le suscita qualcosa oppure dice no, non importa? No, ultimamente purtroppo non è più tornato il presidente dal 29 di gennaio 2009 e 2010 non è più venuto se non una volta l'anno scorso, credo sì, al mese sì. di ottobre o di settembre. E così come sono mancate altre figure di collegamento. Adesso guardi, io credo che in questi giorni si stia tentando di approcciare un nuovo metodo di lavoro sì. e io in questo ripongo molta speranza, perché credo che al di là del mio dovere come sindaco, prima ancora come aquilano, io sono convinto che ce la possiamo ancora fare, potremmo ancora essere un modello a livello internazionale. Sì. Le posso dire sinceramente, sì. si è parlato molto dell'autostrada giapponese in pochi giorni. È vero. Ecco, le posso dire, così lo sento tutti gli italiani, che noi abbiamo fatto un po' di più. Noi nel 2009, in 65 giorni, abbiamo ricostruito scuole per 17.800 ragazzi. Insomma, si può fare. Mi le faccio e fare... Noi possiamo fare, possiamo e potremo fare benissimo se ci si daranno le possibilità. Devo... Si intorno a un sì. tavolo parlando insieme. Devo salutare la sindaco, mi faccia fare una battuta. Ha visto Rita dalla chiesa che dice ora mi insultano, mi minacciano dopo la vicenda di Forum della figurante. Non è un po' esagerata questa reazione? Lei ha chiesto scusa, dice verrò all'Aquila. Lei la invita all'Aquila a dire che può essere stato uno scivolone, sì, uno scivolone, ma insomma non esageriamo. Noi l'abbiamo invitata subito, non sono gli aquilani che insultano, ho saputo di alcuni suoi incidenti così, sì, a me spiace sì. in alcuni ristoranti fuori Aquila e così via, però non però deve venire all'Aquila per capire che cosa si deve fa. Venire, comunque non c'è problema, è la benvenuta. Grazie sindaco, la ringrazio ovviamente, so che è stata una notte anche ovviamente di ricordo e di dolore. Il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, oggi il capo dello Stato sarà all'Aquila, grazie per essere stato con noi. Noi dopo la pubblicità parliamo di questa truffa del Madoff romano, come è stato definito, VIP truffati, promesse, anche tanta gente comune truffata, promesse di investimenti con interessi molto alti. Vi chiediamo, di questa truffa di cui parla il giornale da giorni, sono più vittime o sono più sprovveduti le persone che hanno investito e che si sono ritrovate con un pugno di mosche, in alcuni casi patrimoni di un'intera vita accumulati finiti nel nulla? Tra poco 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. 24 mattino. Eccoci qua, le 8:35 minuti. Allora parliamo di questa truffa di quelli che sono stati ribattezzati i Madoff romani, i Madoff del Parioli. Tantissimi nomi, persone comuni, persone più conosciute, finite nella rete di prestiti finanziari con promesse anche di rendite molto elevate. In tutto pare 170 milioni di euro che sarebbero volatilizzati, ed è questo il tema del nostro sondaggio di oggi. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. Insomma, persone che hanno affidato fino a 5 milioni rotti di euro. Oggi il Corriere della Sera mette la classifica di chi ha investito di più. Viene intervistata anche Caterina Guzzanti, un'altra della famiglia Guzzanti, dopo Paolo Guzzanti, Sabina Guzzanti, che ha investito in queste. Ci sono tantissimi calciatori, ma ci sono tantissime persone comuni. Ieri il giornale ha pubblicato tutto l'elenco delle persone finite, per il momento si sa, in questa rete. Allora, io intanto voglio salutare e ringraziare due persone che sono finite in questa vicenda e che decidono di parlare con noi. La principessa Claudia Ruspoli, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Così come voglio salutare il consigliere provinciale del PD a Roma, Giuseppe Lobefaro, buongiorno anche a lei. Buongiorno, buongiorno a lei. Ci aiuterà a capire anche qualcosa Lorenzo Marconi, che insieme a Marco Frattini, dopo aver scritto Vaffanbanca, Vaffancrisi, è uscito con il nuovissimo Mutande di Ghisa, edito da Rizzoli. Lorenzo Marconi, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, intanto bisognerebbe capire qualcosa. Principessa Ruspoli, qua sa cosa dice molta gente. Lo so che è una domanda fastidiosa, ma molta gente dice... gli sta bene a questa gente, sì, che so, ha investito. Lei che pensa? Mi sa che c'è. Allora, probabilmente hanno ragione, nel senso che soprattutto chi non capisce niente di finanziaria, come la sottoscritta, io ho scoperto il passaparola è più potente di uno tsunami. È vero. Cioè, è incredibile, è vero, la forza e la potenza del passaparola. Allora, quando tu ti ritrovi, molte persone che conosci bene, eccetera, che ti dicono, se hai dei soldi da investire, guarda che questi non ti fanno mai, non ci hanno mai fatto perdere, perché io ho persone che conosco che stanno dentro da 20 anni, capisce? E quindi nello schema Madoff Ponzi, sì, sì, chi sta dentro da 20 anni credo che è anche abbastanza soddisfatto finché il meccanismo non si inceppa. Certo. Quindi a forza di dire guarda che anche nei momenti di crisi non abbiamo mai perso, guarda che qui, guarda che là, persone che stavano da parecchi anni dentro, e io molto ingenuamente ho detto proviamo. C'è la fiducia, la fiducia. Poi ti mettono su, logicamente purtroppo non essendo una grande esperta finanziaria, quindi ho peccato di ingenuità. Ma infatti lei, tra l'altro, in un'intervista credo che abbia detto, io sono il primo a dirgli, voi siete come Madoff, siete quando ha capito sì, che... Perché, ma sì, perché quando abbiamo cominciato a richiedere i nostri soldi e non ce li davano, nel senso che per chiedere una cifra, una piccola cifra, diciamo piccola, ma insomma mettevano 3, 4, 5 mesi, e allora siccome i clienti erano piuttosto arrabbiati e agitati, e allora loro hanno fatto questa grossa convention al Parco dei Principi, sì, con tanto di hostess, di pamphlet, di relatori, in cui hanno spiegato, hanno tentato di spiegare il perché ritardavano i pagamenti, la crisi, qui quell'altro, ma insomma credo che parlavano di aria fritta. Certo. E allora io mi sono alzato e ho detto scusate, ma non è che sarete i Madoff italiani. l'unica cosa è che a quel punto il Titanic stava già affondando. Lei quanto, se ce lo vuol dire, quanto ma ha investito? L'ho già detto un sacco di volte. Ce lo dica anche a noi. Di nuovo? Sì, beh, a noi... Sui 200.000 euro. Per... Sui 200.000 euro. Giuseppe Lobefaro, come detto, è consigliere provinciale a Roma del PD. Anche lei vuole dirci la cifra che ha dato? Io già da questo punto di vista sono più fortunato, anche perché le mie disponibilità erano completamente diverse. Io ho investito 36.000 euro. 36.000 euro. Senta, ma questa idea del passaparola, cioè com'è possibile, viene definita come, anche ci sono tanti articoli sul contesto sociale dei Parioli, della Roma bene, molto bene, insomma, in cui hanno agito questi signori che hanno... Che sì, hanno... ma non solo, perché io personalmente non frequento quel mondo e quindi non... Le mie conoscenze non derivavano da questo tipo di realtà, ma pure per me è successa la stessa cosa, nel senso che a un certo punto io sono arrivato in questo meccanismo alla fine, nell'ottobre del 2008, e parlando con una persona, un amico che conoscevo, avendo una piccola appunto somma che non avevo intenzione di lasciare in banca, visto che la banca purtroppo erano solo spese, promette interessi bassi, poi soprattutto no, non è che diciamo che sono soltanto quasi zero, spese, quasi zero spese del conto e quindi per cercare di rendere un pochino più dinamici questi soldi, l'investimento di questi soldi, accettai il consiglio di una persona che oltretutto, come si diceva prima, da più di 20 anni aveva rapporti con queste persone. No, c'è questa cosa interessante. Tra l'altro, oggi sul Messaggero c'è, per esempio, il racconto fatto da Ugo Trani di come Ruggero Rizzitelli, ex calciatore, sì, che ha investito pare 5 milioni di euro, abbia consigliato vari calciatori, per cui vari calciatori sono finiti nella rete: il portiere Andrea Pazzagli, Giovanni Stroppa, Stefano Desideri, Massimo Agostini, il portiere della Roma Doni, tutti finiti in questa rete. Oh, allora io vorrei chiedere a Lorenzo Marconi, detto che qua, bando al moralismo, quelli che dicono ben gli stai, io non li capisco, cioè ognuno ha rapporto col denaro che crede e non è un delitto e non è una colpa voler cercare di investire il proprio denaro in maniera proficua, cercare di accrescere il proprio patrimonio. Però nel sondaggio che noi chiediamo, più vittime o più sprovveduti, stravince l'idea sprovveduti, cioè l'89%. Voglio dire, Marconi, c'è un po' questa sorta di ricerca dell'Eldorado. Qualcuno ha detto, vabbè, allora fate come Pinocchio, mettete gli zecchini sotto l'albero e aspettate che crescano dall'albero, no? Purtroppo il discorso è molto lungo, cercheremo di sintetizzarlo. Intanto, come abbiamo scritto Marco ed io in mutande di ghisa, oggi purtroppo bisognerebbe uscire di casa tutte le mattine con una sana mutanda di ghisa, perché le trappole che sono disseminate sul nostro cammino, ahimè, sono tante, e non solo nel settore finanziario. Nel settore finanziario purtroppo si fa poca educazione, c'è tanta educazione alimentare, i temi vengono trattati ad ampio spettro in tanti settori, purtroppo in finanza si parla ancora troppo di rendimento e non si parla mai di rischio, invece bisognerebbe insegnare alle persone che il rendimento è figlio del rischio. È chiaro che pensare di investire dei soldi al 10% quando i tassi dei titoli di Stato, poi lì dovremmo parlare anche dei rischi dei titoli di Stato, perché abbiamo visto comunque che oggi ci sono paesi che sono chiaramente in grande difficoltà. È chiaro che un 10% di interesse non può essere un investimento privo, cioè, di c'è qualcosa che dovrebbe far insospettire, eppure non è successo, cioè la rete di amicizie, però, il passaparola, il dire fidati, guarda che... Permettimi di fare un altro passaggio, sì, invece, che questo non vuole costituire un alibi per i nostri amici investitori, con il quale sono molto solidale, perché nel settore quando rubano i soldi alla gente purtroppo è sempre brutto, che siano tanti o pochi soldi, che siano piccoli risparmiatori o grandi investitori, il risparmio e l'investimento va sempre rispettato. Purtroppo il nostro cervello però ragiona per pulsioni emotive. Noi ragioniamo e ci comportiamo in maniera emotiva e non razionale. E le due pulsioni negative che il nostro cervello analizza in primis sono la paura di perdere i soldi, sì, e insieme alla paura di perdere i soldi, la paura di perdere il treno del guadagno e ahimè l'avidità. L'avidità. Ed è chiaro, ecco, questa... certo, purtroppo l'avidità che fa scattare un meccanismo che noi vogliamo guadagnare comunque dei soldi facili. Esatto. Cadiamo in queste questo trappole. È interessante, perché Caterina Guzzanti, oggi intervistata al Corriere della Sera, dice: la cosa proprio che mi dà più fastidio è venire raccontati come avidi. Principessa Ruspoli, anche a lei dà fastidio questa immagine che è apparsa un po' su qualche giornale dell'avidità? Senta, cosa vuole che le dica? Se lei su un tavolo vede una mela piccolina e una mela un po' più grossa, che fa lei? Cioè, è normale, fa parte della natura dell'uomo, penso, cercare di avere un po' di più. A parte che quando io ho investito nel 2008... gli interessi che mi si diceva che non erano il 10%, bensì il 6-7%. Perché loro sono stati anche in questo, quando c'era la crisi, quando c'erano i problemi e tutto quanto, non davano più, non promettevano più il 12-10, quello che promettevano il 6-7. E quindi questo era tutto virtuale. Era tutto virtuale, ma questo si è scoperto dopo. Per questo ha ingolosito un pochino sul tema della verità, o comunque su qualche ascoltatore da cui voglio ripartire dopo le informazioni sul traffico. Ho detto che appunto prevale nettamente l'idea, sono più sprovveduti addirittura l'89% dei nostri ascoltatori. Tra pochissimo. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, c'è chi ci scrive: ma non era Sabina Guzzanti? Sì, sono finiti un po' tutti i Guzzanti. Paolo Guzzanti, onorevole, Sabina Guzzanti, ora Caterina Guzzanti, si è scoperto la sorella, non si hanno notizie di Corrado. O c'è chi ci scrive: la truffa viene fatta perché in Italia non si paga tanto, poi no, si finisce tutto senza una grande punizione. Ancora chi ci dice: ma sono solo i ricchi. Ma non è vero, sono tantissime persone comuni che sono finite. Certo, fanno più notizia le persone celebri, i calciatori, ex calciatori, gli imprenditori, eccetera. Gli attori, i registi Vanzina anche ci sono. Vorrei sentire però come ascoltatore Marcello da Roma, buongiorno. Buongiorno, senta, io conosco perfettamente una persona che ha fatto operazioni di questo tipo, che andava a finire, il cui nome andava a finire ieri sul Messaggero. Va bene. Morale, conosco anche coloro che sono stati coinvolti. Purtroppo in questa situazione non ci si rende conto che chi offre il 12% è evidente che minimo il doppio lo richiede per sé. Quindi queste persone possono essere catalogate solo come truffatori o usurai. Di conseguenza, coloro che cadono in questo imbroglio sono c'è un'inchiesta, non esageriamo con le terminologie. Poi mi scusi, sa, però chi ha questo 10% abbia pazienza. Sicuramente, come si fa con tassi all'1% a offrire il 12%? C'è dell'usura di mezzo o c'è un imbroglio di mezzo? Infatti, poi succedono queste cose. Chi ci casca, purtroppo, devo dire, se viene tacciato di essere una persona avida, tutto sommato non mi sembra sbagliato. Ma c'è nell'avidità, nel fatto in, non nel no, fatto in sé denaro, di voler no, investire, no, ma nel denaro proprio. Cioè, in pratica c'ho 100.000 euro, se qualcuno mi dice io te ne offro 12.000 di rendita, quello si lecca e baffi, non veniamoci a prendere in giro. E quindi anche colui che prima ha parlato, l'esponente del PD, non sì, perché del PD me ne guardo bene, no, sa, c'avevo 36.000 euro, non sapevo dove metterli, e gli hanno detto se ti rende il 10% lui si è leccati i baffi anche se... Non so, sentiamo, Giuseppe Lobefaro, è una questione di avidità anche o semplicemente di dire investimento, fiducia, di ingenuità, come la vuol allora, mettere? Io, se, alla signora che ha parlato vuole, le mando i documenti che ho ricevuto dove parlavano di un 5% di interesse. 5%. Quindi, siccome è molto facile spesso in queste situazioni partire in lancia e resta, e ognuno ha il diritto anche di criticare sui comportamenti altrui, io prima di fare questo tipo di affermazioni, se vuole appunto le mando la documentazione e le faccio sapere qual è il mio caso personale. Quindi l'avidità non c'entra, la voglia di... Sicuramente se mi avessero fatto ragionamenti così strambi del 10-20% non avrei mai accettato, sapendo che queste sono delle cose allucinanti, impossibili, e quindi sicuramente non era il caso mio. A me è stato proposto soltanto di investire in un fondo che era sicuramente più dinamico rispetto a quelli tradizionali, con un 5% di interesse, e dopo un anno mi fu mandata la documentazione dove risultava che questi 36.000 euro erano aumentati appunto di 5%. Tra l'altro io, Lorenzo Marconi, vorrei chiedere se l'avidità è uno dei sentimenti che abbiamo messo in gioco, dall'altra c'è secondo me anche l'invidia, cioè io non capisco i tanti che anche ci scrivono a chi ha fatto questa cosa ben gli sta, come se poi andare a colpire nel portafogli sia una cosa che suscita, no, questo sentimento di gioia da parte di qualcuno. Per esempio, io ho criticato, non so, Sabina Guzzanti nel modo di fare l'intervista che ha fatto, magari non è coerente con alcune idee che ha professato, però quelli che dicono ah, ben gli sta Sabina Guzzanti che ha perso questi soldi, perché Lorenzo succede anche questa, si scatenano questi sentimenti? Ma intanto io vorrei fare una precisazione: avidità, quando ho citato paura e avidità dal punto di vista delle pulsioni emotive del cervello, è un'avidità tra virgolette, perché non dobbiamo visualizzare uno con la bava alla bocca che cerca di guadagnare. Purtroppo, no, certo. Chiaramente sono delle, il nostro cervello cerca delle scorciatoie, e purtroppo è concepito in modo che preferisca delle dolci menzogne piuttosto che delle amare verità. E il problema secondo me è un altro, che la clientela generalmente è, lo dico anche questo tra virgolette perché non è assolutamente una critica, e sono decisamente solidale con chi ha perso i soldi invece, e non ho l'invidia o la rivalsa di cui tu stavi parlando poc'anzi, perché purtroppo c'è una disinformazione, il cliente tra virgolette è ignorante, no? E per cui chi truffa è anche molto abile, cioè se questi fossero stati degli sprovveduti non avrebbero ciuffato 170 milioni, no, certo, a della gente, a 1200-1300 persone, cioè, insomma. Dietro queste persone ci sono degli abili, adesso io non voglio chiamarli truffatori perché ma ci sono degli abili sicuramente operatori che operano che al però di fuori dicono che delle maglie e delle normative, perché anche qui che però dicono sapevano tutto, chi ci dava i soldi sapeva tutto, era ben informato, era bene. Questa è la linea difensiva di queste persone del carcere. Quando parliamo di rischio e rendimento, dovremmo comunque sempre ricordare che noi dobbiamo investire in un qualcosa dove ci sia una consapevolezza, cioè vale a dire, se io compro un'autovettura che va a 300 all'ora, devo sapere che mi sono comprato un'autovettura, sì, che va a 300 all'ora, o se sono a dieta e mangio 10 kg di spaghetti, sarò consapevole, sì, che tanto a dieta non ci starò. Allora, ecco, sugli investimenti manca proprio, perdono e concludo, manca la cultura del rischio, perché noi per 30 anni abbiamo insegnato alla gente a guardare solo il rendimento. No, certo. I giornali fanno le classifiche del rendimento e non fanno la classifica del rapporto rischio-rendimento. Invece quello che funziona, premesso che ogni investimento dovrebbe essere calato su di noi come la taglia di un vestito, e l'investimento non deve essere uguale per tutti, però è importante che si passi dalla visione del solo rendimento al rendimento alla visione barra del rapporto rischio-rendimento. Cioè. Sentiamo se Roberto da Vicenza ci vuol dire qualcosa, però a 30 secondi. Di Roberto, gentilmente. Sarò velocissimo, sì, anche perché buona parte di quello che volevo dire l'ha appena anticipato, sì, il vostro ospite. Bene. Che se non ho capito male, quello è l'autore del libro. Sì, Mutande di Ghisa, sì. Mi ritrovo d'accordo nel 99% di quello che ha detto sostanzialmente. Io però voglio aggiungere una cosa. Sono tutte persone queste che hanno investito in questa maniera, che probabilmente hanno preso i soldi alla banca per portarli a investirli lì. Il qualsiasi funzionario di banca, qualsiasi direttore di banca avrà domandato cosa vuol fare di questa disponibilità, sì, e avrà esposto quasi sicuramente il fatto che se l'Euribor, il valore del denaro è 1, qualcosina oggi, è impossibile avere rendimenti alti. Quindi lei dice sono stati avvisati, dice probabilmente. Persone ingenue non mi pare, perché culturalmente ovviamente sono tutte di alto livello. Ma sa, culturalmente cosa c'è? Io sono laureato, ma se dovessi fare un investimento dovrei pensarci avere 5.000 consigli prima di farlo, perché sa, poi l'ignoranza non è che va di pari passo alle lauree, eccetera. Poi in materia finanziaria io sono un completo ignorante, lo dico, non ho problemi a dirlo, caro Roberto. Principessa Ruspoli, io devo concludere, ma se lei incontrasse queste persone che sono in carcere per il momento in giro al Parioli, che direbbe loro? No, io veramente, più che, scusi, sì, lei è impegnato, sì, la trasmissione sull'avidità. No, ma no. Perché non, perché per esempio la Consob e la Banca d'Italia, che sì, dovrebbero monitorare queste finanziarie, com'è che non riesco a capire come sono riuscita a evadere questi controlli? Questa è una cosa che volevo chiedere a voi. Che magari accerteranno questa cosa, c'è un'inchiesta, quindi sa, faranno e poi un'altra cosa, che a parte l'avidità dei ricchi, cioè voglio dire, è tutta questa povera, cioè io so di persone che hanno perso tutto, anziani, ma certo, anziani, ma persone certo, sole, anziane, che hanno dato tutti i loro risparmi per poter avere una vecchiaia tranquilla e che sono ridotti ad andare alla Caritas per la mensa. Ma infatti questo infatti l'abbiamo detto, cioè ci sono, colpiscono le persone celebri, ma ci sono moltissime persone che hanno perso tutto, anche i risparmi di una vita, e questo è il vero dramma sicuramente. Io mi devo fermare, vi ringrazio dalla principessa Claudia Ruspoli, a Giuseppe Lobefaro, consigliere provinciale Roma del PD, di Lorenzo Marconi voglio ricordare ancora, lo ringrazio, edito da Rizzoli, l'ultimo libro Mutande di Ghisa, scritto con Marco Fratini, freschissimo, quindi interessante. Mutande di Ghisa sono quelle che dovete indossare, per evitare anche queste cose. Ci fermiamo, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione e Peter Bescapè in regia. Che dire, ci troviamo domattina alle 7:20.